Un saluto a tutte e a tutti dalla inconfondibile sigla e dalla ottima musica. Avrete già capito che siete all'ascolto di Zardins Magnetics, trasmissione autogestita dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste, che va in onda in diretta ogni giovedì dalle 20 alle 21:30 su Radio Onde Furlane, che ci ospita. Allora, oggi cominciamo a bestia con due argomenti correlati, diciamo. Vorremmo parlare del pacchetto sicurezza che ha sfornato questo governo, insomma deve ancora passare in Parlamento comunque, e poi anche della giornata contro la violenza di genere, violenza maschile di genere, che appunto cade il 25 di novembre. Dico correlati perché in realtà l'incremento della gestione securitaria della società è direttamente collegata anche con la, è una forma di violenza di Stato ed è collegata direttamente con appunto la violenza patriarcale contro le donne e in generale contro le così identità non conformi. Allora, iniziamo col pacchetto sicurezza. Intanto consiglio di ascoltare, per chi è appassionata, appassionato di radio, su Blackout ci sono due interventi interessanti di due avvocati che sono anche compagni, l'avvocato Losco e l'avvocata Calia, che parlano in maniera molto dettagliata di modifiche al codice penale che sono previste da questo pacchetto sicurezza. Allora, intanto c'è questo discorso della... palesemente un pacchetto vieppiù, lo era già anche i precedenti, lo erano, ma questo calca la mano, diciamo, sul discorso della guerra ai poveri e della guerra ai rivoltosi. Allora, c'è questo nuovo reato di occupazione, definito così, reato di occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui con violenza o minaccia, che prevede una pena da 2 a 7 anni. E questa roba qua è stata fatta proprio per colpire le occupazioni delle case popolari abbandonate che abbondano in tutto il territorio dell'Italia. E insomma, appunto, questo nuovo reato, si tratta di un nuovo reato, è particolarmente odioso. Poi c'è una, diciamo, caricare la dose rispetto ai picchetti. Per i picchetti sono previste pene da 6 mesi a 2 anni. Allora, anche quelli, i picchetti semplici, cioè che implicano la semplice presenza delle persone, insomma, in strada, per appunto manifestare, anche quelli, quindi senza masserizie, barricate, eccetera, i quali erano già puniti penalmente. Allora, gli altri prevedevano delle pene pecuniarie, delle pene amministrative, invece sono punite penalmente. Quindi è chiaro che anche questo provvedimento qua vuole colpire le lotte per la casa, le lotte per il lavoro, insomma, ci vengono in mente i picchetti per dei lavoratori della logistica, ma anche altri per dire le lotte contro i CPR, ad esempio, mi viene in mente. Ci sarà un aumento della virulenza punitiva anche rispetto a chi scrive sui muri, soprattutto sui muri delle caserme o di luoghi, insomma, che contengono tutori dell'ordine, militari, forze dell'ordine, eccetera. È previsto un aumento dell'attività dei servizi segreti e anche una così liceità delle infiltrazioni, cioè saranno incrementate, nelle intenzioni di questo governo, aumentate le infiltrazioni di, appunto, agenti segreti all'interno dei movimenti per poi distruggerli dall'interno, insomma, per far agire in maniera capillare la repressione. Da questo punto di vista, questo pacchetto sicurezza, appunto, si basa su una tutela mostruosa delle forze dell'ordine che viene molto aumentata. Allora, riguardo alla resistenza pubblico ufficiale, che resistenza pubblico ufficiale non è necessario, ricordo, venire alle mani, è semplicemente, si tratta anche di una resistenza passiva o semplicemente di fronteggiare, diciamo, la polizia, come può succedere mille volte in manifestazione. Allora, la resistenza pubblico ufficiale, se il pubblico ufficiale è di polizia, quindi non un pubblico ufficiale generico, insomma, c'è un aumento di un terzo della pena ed è aggravato questo reato se ci sono, insomma, più persone che lo mettono in atto, e quindi, appunto, vi si vuole colpire le manifestazioni. E tra l'altro le attenuanti, praticamente spiegava tecnicamente, non so ripeterlo, ma ho capito così, spiegava l'avvocato Losco che le attenuanti, che possono essere varie, dall'essere incensurati, eccetera, e non possono essere prevalenti sulle aggravanti, quindi praticamente il gioco è fatto, insomma. E, ecco, un'altra cosa, un altro aspetto molto grave è questo nuovo reato di rivolta, che è un reato ostativo, che riguarda gli istituti penitenziari. Ostativo significa che se un detenuto o più detenuti sono accusati di, cioè sono imputati di questo reato, non possono accedere ai benefici previsti dalla legge. E, questo è una cosa molto pesante, molto violenta, perché si parla di reato di rivolta anche non solo per rivolte guerreggiate, diciamo, ma anche per semplice resistenza passiva a ordini arbitrari che sono all'ordine del giorno anche qua, in quella istituzione totale dove regna l'assoluta arbitrarietà, che sono le carceri. E praticamente le pene possono arrivare fino a 8 anni, quindi ci possono essere delle persone che sono dentro per reati bagatellari, come li chiamano, e quindi hanno delle pene da scontare bassissime, che si trovano a dover scontare, se questo maledetto pacchetto sicurezza va in porto, anche molti anni di carcere. Tra l'altro, questo nuovo reato di rivolta viene applicato anche ai prigionieri dei CPR, e quindi anche qui, in questi luoghi dove appunto negli ultimi anni c'è stata molta vitalità e molta volontà, insomma, di lotta, c'è un tentativo di spegnere, di annichilire queste lotte. Cosa dimentico? Beh, c'è ancora questo discorso delle madri in carcere, che anche le donne incinte o con bambini al di sotto dei 3 anni finora erano, la pena non poteva essere scontata in carcere, ora invece è praticamente a giudizio, insomma, del giudice, possono anche finire in carcere, e questo è un provvedimento mirato a colpire le donne rom. Anche qui ci sono tutte delle costruzioni, delle mistificazioni sulla pericolosità sociale delle persone, e su questo enfatizzare questo discorso delle borseggiatrici, come viene enfatizzato il discorso delle occupazioni, io vado a fare la spesa e torno e la mia casa è occupata, cioè chiaramente tutte queste cose sono preparate, no? Anche da una costruzione della paura, dell'allarmismo e della totale irrazionalità, insomma, nelle cose che si percepiscono. E penultima cosa allucinante: i poliziotti, cioè tutte le forze dell'ordine, potranno, se va in porto, avere non solo l'arma d'ordinanza, diciamo, la quale però non può essere così portata in giro allegramente, ma possono detenere armi non d'ordinanza, private loro, senza porto d'armi, e possono portarsele dietro e intervenire anche quando non sono in servizio, cose fuori da ogni sensatezza. Tra l'altro, gli stessi poliziotti, io ascoltavo una mattina una trasmissione su Radio 3 e la giornalista, che non mi ricordo chi fosse, insomma, spiegava questa norma, ed è intervenuto uno sbirro al telefono dicendo no, ma perché, spiegando anche, no, perché la pistola d'ordinanza pesa un casino, quindi è scomoda da portare in giro e poi non è maneggevole se la devi tirar fuori, mentre una pistola più agevole, quindi appunto le intenzioni sono queste. E infine la norma che è stata definita dai compagni avvocati, la norma anti Alfredo Cospito, cioè pensata proprio sulla sua figura, che è questo reato di istigazione, aggravamento del reato di istigazione, se a istigare è qualcuno dentro il carcere, qualche persona che è prigioniera nel carcere e istiga, diciamo, le persone fuori, o anche le persone fuori che istigano con le loro parole i prigionieri all'interno degli istituti, appunto, di detenzione. Ecco, questo è un po' velocemente, ma insomma, una panoramica su questo obbrobrioso pacchetto sicurezza, è stato definito una specie di libro degli orrori anche da Antigone. E ascoltiamo un po' di musica e poi appunto ci ricolleghiamo, perché anche questo 25 novembre, appunto giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, è importante per noi, è importante che venga declinato contro queste così misure securitarie. Allora, per parlare della così giornata internazionale contro la violenza sulle donne, io propongo alcuni così pensieri da un volantino di alcune compagne eretiche, transfemministe, antiautoritarie che scrivono da Bologna, e poi da una sorta di premesse, diciamo, che le compagne della coordinamenta femminista e lesbica di Roma hanno messo nel loro blog, appunto come premesse verso l'ultimo 25 novembre. E allora iniziamo dal volantino delle compagne bolognesi. Loro lo hanno intitolato così: contro la violenza maschile e di Stato ci proteggono le nostre compagne, non il pacchetto sicurezza. E iniziano ricordando appunto con rabbia e dolore Giulia Cecchettin, che è la giovanissima 105esima vittima di femminicidio di quest'anno, e appunto parlano in questo volantino della crescente spettacolarizzazione dei casi di violenza di genere, che è una cosa veramente fortissima. E questi racconti morbosi che raccontano appunto la violenza, descrivono la violenza nei minimi dettagli, e che sono orientati anche a fissare una distanza tra chi commette la violenza e la società cosiddetta civile. Allora, ci dicono le compagne, chi ci stupra o uccide diventa il mostro, il pazzo, l'animale. Troppo difficile ammettere che invece si tratta di una persona inserita, conosciuta, un compagno, un amico, un familiare, un conoscente, quello che non farebbe male a una mosca. Si è parlato in questi giorni con indignazione del risentimento che l'assassino mostrava nei confronti della laurea imminente di Giulia, incapace di accettarne l'autonomia, i traguardi. Ma se scaviamo, l'odio covato da quest'uomo non ci stupisce e ritorna ben presto familiare. Lorenzo Fontana, attuale presidente della Camera ed ex ministro della famiglia e della disabilità, figura cardine del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona del 2019, nel suo testo La culla vuota della civiltà, all'origine della crisi, senza tanti giri di parole, accusa della crisi in corso proprio le donne, donne che studiano, pensano, si laureano, non si dedicano alla famiglia e non fanno figli. Secondo il ministro, sono le donne che si sottraggono al loro ruolo di riproduttrici e ancelle del focolare che creano la crisi della nostra società, non chi sfrutta e si arricchisce sulla pelle di comunità e territori annientandoli. E poi continuano le compagne bolognesi dicendo: si legifera sui nostri corpi per assoggettarne altri, generalizzando risposte punitive e repressive su parti di popolazione provenienti da specifici contesti sociali e territoriali, e in questo senso lo si fa anche con un razzismo molto marcato. E vabbè, concludono, non ci rende sicure una società che si autoassolve e che delega a esercito e militari un problema sul quale essa stessa si basa. La divisa che ci bastona per le strade e ci incarcera quando ci difendiamo o lottiamo per una vita radicalmente diversa è parte integrante del problema, non la soluzione. E quindi desideriamo ripensare a tutto un altro genere di sicurezza, a tutto un altro genere di famiglia, a tutto un altro genere di comunità e di vita che mette in discussione alla radice la violenza maschile e lo sfruttamento predatorio che si abbatte anche su altri corpi, che rimette al centro la sorellanza, la solidarietà tra oppresse e oppressi, la lotta per un mondo di libere e uguali, la cura reciproca e l'autodeterminazione. E per chi ha ricevuto, diciamo così, la una sorta di scaletta della trasmissione, noi abbiamo scritto no al pacchetto sicurezza contro la violenza del patriarcato e dello Stato, autodifesa femminista. E quindi parliamo anche un secondo di questa cosa dell'autodifesa femminista. E allora, l'autodifesa, ci dicono le compagne di Genealogie, che sono state ospiti venerdì scorso allo spazio autogestito di Via De Rubeis qua a Udine, l'autodifesa è una costruzione costante e quotidiana di pratiche di diverso tipo, e al suo interno è una costruzione e al suo interno rientra anche l'acquisizione di strumenti contro la violenza agita dal maschio. Praticare l'autodifesa significa distruggere le dinamiche di asimmetria nelle relazioni. Tuttavia, non si può portare avanti uno strumento di lotta diviso tra pars destruens e pars construens, cioè non posso prima distruggere il potere e poi costruire un nuovo mondo. Le due cose devono avanzare contemporaneamente. E questa è, vabbè, poi insomma magari approfondiremo ancora, ma è un aspetto interessante, perché l'autodifesa femminista, appunto, ha una dimensione collettiva e di condivisione molto forte, ma anche le compagne di cui ho letto parti del volantino prima, insomma, lo dicono: ci proteggono le nostre compagne, non il pacchetto sicurezza. E no, intanto questo. Concludiamo questo, così, questi pensieri sulla lotta per l'autodeterminazione, appunto, e contro la violenza di Stato e patriarcale. E vi dicevo di queste premesse verso l'ultimo 25 novembre che ci propongono le compagne del Coordinamento Femminista e Lesbica di Roma nel loro blog. Allora, c'è uno di questi contributi, si intitola Lo Stato, carnefice, giudice, tutore e samaritano. E ci dicono le compagne: il femminismo non è lotta corporativa, è ben altra cosa. Il femminismo è consapevolezza dei meccanismi che informano l'oppressione e la violenza su di noi, ed è quindi alterità a questa società. È ricerca di vie di fuga, è riconoscimento del nemico, è auto-organizzazione e autodeterminazione al di fuori di ogni rapporto con le istituzioni. Non è spartizione di soldi pubblici, non è contrattazione né collusione, non è concertazione, non è vertenza sindacale. Lo stanziamento di fondi pubblici non è gratuito, ha il prezzo della depoliticizzazione del conflitto sociale. È un modello in cui si fa fatica a riconoscere il significato delle parole ed è facile smarrire la strada della liberazione. Dove riforma significa soppressione delle garanzie e regresso delle conquiste sociali ottenute con la lotta, dove antisessismo significa usare la violenza sulle donne come grimaldello di controllo sociale e leggi securitarie. Non tutte le donne sono nostre sorelle, non sono nostre sorelle quelle che fanno il lavoro sporco di licenziare dall'alto delle loro posizioni acquisite e privilegiate altre donne, quelle che reprimono e condannano, forti di una divisa o di una carica istituzionale, quelle che giustificano le guerre umanitarie, quelle che medicalizzano tutte le altre, quelle che partecipano da posti di responsabilità negli ospedali e mimetizzate con il camice bianco dell'emancipazione alla guerra alla 194. Quelle che propagandano l'ideologia dominante e partecipano attivamente all'oppressione e alla violenza, questa sì, su tutte le altre donne e sugli oppressi tutti. Tutto quello che è stato ottenuto con le lotte degli anni 70 non è stato ottenuto perché è stato chiesto o contrattato, ma perché il femminismo diceva e voleva altro, voleva la luna, il sole, la vita. Perseguiva il sogno della liberazione, si era auto-organizzato al di fuori di ogni struttura istituzionale ed è proprio per questo che il potere ha tolto l'acqua ai pesci, dando contentini e concedendo diritti, consultori pubblici e 194, proprio per riportare al controllo e alla ragione un movimento che non ne voleva sapere. In questo modo è stato dato un colpo mortale al femminismo, perché alcune in buona fede, alcune in cattiva, hanno avallato la scelta istituzionale, hanno accettato la delega e la vittimizzazione, il controllo delle esperte e degli esperti, hanno riportato le donne sotto il controllo dello Stato. Un controllo moderno e partecipativo, pericolosissimo. E concludono appunto le compagne: rimanere rivoluzionarie è il solo modo di costruire strade di liberazione. Allora, vi metteremo insomma tutte i riferimenti sul blog per le letture, perché sono, mi rendo conto ora che sono abbastanza corpose e altrimenti il tempo passa e non si riesce a parlare di altre cose. E quindi per questo tema qua, insomma, la chiudo qua. Buonasera, stiamo ascoltando Il Litige, una band francese di Lyon, e l'album si intitola Fuite en Avant. Prima abbiamo ascoltato gli Spy, che è una band californiana, e prima ancora, come sottofondo degli interventi, Suzy and the Banshees. E la prima canzone che abbiamo ascoltato dopo la sigla apparteneva ad un gruppo che si chiama Capra. E dopo questa canzone dei Litige ci ascolteremo i Distillers dal loro album omonimo uscito nel 2000. Open sky, open ether, open rise up inside. I see it, it's true. Yeah, it's true. All rise up beneath the all rise up inside. Believe it, it's true. Yeah, it's true. Sì, buonasera a tutte e tutti voi che siete in ascolto di questa puntata, 20 e 51 minuti di questa Zardins Magnetics di giovedì 23 novembre 2023. Che cos'è una battaglia? Si chiede Novalis, il romantico tedesco, nei suoi frammenti. Che cos'è una battaglia? Un processo di disorganizzazione. Alcuni anni dopo, in anni recenti, diciamo, riflettendo su questa questione dei droni, di cui siamo andati parlando, diciamo, ne abbiamo parlato le volte scorse, alcuni hanno ipotizzato che il drone configuri una possibilità, diciamo, di battaglia, diciamo, di nuovo genere di battaglia, cioè non è più un processo di disorganizzazione, nel senso che quel tipo di conflitto che mette, diciamo, in piedi l'uso di un'arma come un drone, cioè come un dispositivo comandato a migliaia di chilometri di distanza, in modo da derealizzare la violenza, renderla, diciamo, naturale, ovvero aggiungere alla realtà delle cose un'altra superficie, appunto, vestire di naturale qualcosa che naturale non è, come un atto violento, appunto. Contrariamente alla leggenda diffusa, il drone si configura come un'arma indiscriminata di nuovo genere, in quanto, sopprimendo la possibilità stessa della battaglia, cancella la possibilità di distinguere chiaramente i combattenti dai non combattenti. Ecco, quindi quando siamo in questo nuovo contesto che impone l'utilizzo di un'arma come il drone, emerge anche un tipo diverso di etica, non più appunto fondato su quello che era ciò che circonda la vita e i rapporti degli esseri umani, bensì appunto è una dimensione dove vanno a regolarsi dei rapporti più che di vita, di morte. Quindi sarebbe più corretto battezzarla, più che etica, una necroetica. Mentre l'etica è classicamente definita come una dottrina del vivere bene e del morire bene, la necroetica si costituisce come una dottrina dell'uccidere bene. Si disserta sulle varie procedure d'omicidio, rendendole oggetto di una compiaciuta valutazione morale. Una volta instillata negli animi la falsa evidenza secondo la quale il drone è per principio un'arma più precisa e perciò stesso più conforme al principio di distinzione, la necroetica del drone sbarazza il campo da ogni discussione di fondo e rinvia tutte le critiche a un dibattito di cifre in cui, per inversione dell'onere della prova, è a carico dei critici di dimostrare empiricamente che l'arma, a priori più etica, avrebbe eventualmente prodotto risultati opposti e comunque sempre a causa di un cattivo uso, di un errore umano nell'uso dello strumento che rimane buono in sé. Cioè, sempre questa questione della neutralità dello strumento, che appunto è stata definitivamente destrutturata, se si vuole, dalla filosofia del Novecento. Anche questa questione qua, però, chiaramente nel senso comune non è per niente diffusa. Ecco, si pensa ancora che comunque dipende dall'obiettivo, insomma, dall'uso, che dal fine, eccetera eccetera, che si dà a un utensile. Invece è bene, insomma, aver chiaro che l'utensile è sempre inserito, no, in un contesto ambientale, appunto, dove ha una sua utilità specifica, però dentro appunto un contesto di significati preciso, che è quello appunto del antropologico, insomma, della presenza, chiamiamola così, ecco, non, metafisica, ecco, della razionalità, eccetera eccetera. Non mi dilungo su queste sfumature. E continua, stiamo sempre leggendo da Teoria del drone di Grégoire Chamaillou, che avevamo già altre volte, da cui avevamo altre volte, diciamo, citato. Vista l'opacità sia dei criteri di individuazione del bersaglio che del bilancio reale degli attacchi, le critiche tendono allora a focalizzarsi sulla questione della trasparenza. Si chiedono a gran voce le cifre esatte e i dettagli delle procedure. La discussione giuridica si perde in rivoli tecnici, materia esclusiva di statistici e di medici legali, che, deviando lo sguardo pubblico dagli effetti concreti della violenza armata, contribuiscono a reificare e a disincarnare in maniera ancora maggiore l'esistenza delle vittime. Laddove c'erano esseri umani, adesso resta solo una nota giuridica delle colonne di cifre e dei rapporti di analisi balistiche. Quindi ecco dunque vado così a concludere questo intervento così rapido, così anche un po' improvvisato. Il discorso è appunto, oltre ai contenuti, diciamo, le questioni di contenuto dell'arma, dell'utilizzo dell'arma, dell'industria, della nocività che mettono in moto tutti questi dispositivi, queste diavolerie, sia dell'industria bellica sia appunto del ciclo di vita degli apparati militari, insomma anche degli stessi apparati, voglio dire, umani militari, c'è anche tutto quest'altro versante, diciamo, chiamiamolo retorico, così comunicativo, anche banalmente, ma anche di apparati anche accademici formali di giustificazione, tutto qua, di strutture che vanno là a giustificare, a rendere appunto sempre così in qualche maniera facilitare l'accettabilità di queste armi così che sono cioè di una violenza efferata, sono in realtà spietate, non sono per niente chirurgiche, appunto sono chirurgiche nel senso che anche nella chirurgia si versa, insomma c'è presenza di sanguinaria in sé, anche la chirurgia è sanguinaria, ma voglio dire non è possibile, no? Pensare che ad esempio avevamo parlato dei droni kamikaze, come vanno ad agire con la precisione millimetrica, ma è implicito anche in quella violenza millimetrica l'andare a devastare comunque un contesto umano di relazioni che non si conosce, che si improvvisa, che si va, appunto, vediamo ormai è un dato di fatto che andare a distruggere strutture sanitarie o contesti civili, stessi mercati rionali, per quanto appunto fosse già una cosa paradossale parlare di queste cose in una prigione a cielo aperto come la Striscia di Gaza, ma in ogni caso è evidentemente accettabile andare a colpire, ma anche mettendo per assurdo anche mettendo fosse reale la motivazione addotta, insomma, la presenza di guerriglieri così gente armata con intenzioni violente dentro strutture sanitarie, ospedaliere, anche questo fosse ipoteticamente reale, comunque è stata resa accettabile, che è lecito, che appunto che moralmente non c'è niente da ridire, anche eticamente appunto andare a colpire quel contesto lì, quindi non solo appunto le persone nemiche, ecco, ma anche persone inermi, e appunto nella fattispecie doppiamente inermi, perché sono lì per un motivo, ecco, concreto, insomma, che non possono, si sono debilitate dal punto di vista sanitario, quantomeno sono addirittura bambini, eccetera, eccetera, anziani e così via. Tutto questo qua è esito di un lavoro, no? Che è stato fatto già, non è stato improvvisato in questi giorni, è una cosa ormai acquisita, e niente, questo aspetto, no? È da tenere sempre presente, che va in qualche maniera bisogna cominciare a decostruire, anzi abbattere, però in maniera lucida, ecco, tutto qua. Sì, allora ore 21:07 circa di giovedì 23 novembre. Siete sempre su Zardins Magnetics e ritorniamo in voce per presentare un'iniziativa che si svolgerà domani, che è venerdì 24 a novembre a Trieste, in via dell'Istria, in un luogo che si chiama Bibitando e Magnando, e invece venerdì 1 dicembre a Udine, nello spazio autogestito di via De Rubeis a Udine. Si tratta di un'iniziativa solidale con Georges Ibrahim Abdallah, che è un prigioniero rivoluzionario nelle carceri francesi, è detenuto dal 1984 e è un compagno comunista che praticamente ha combattuto nel Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e poi anche nelle frazioni armate rivoluzionarie libanesi. Allora, l'iniziativa solidale consiste nella proiezione di un documentario che si intitola Fedaïn, Le Combat de Georges Abdallah, un documentario del 2019 sottotitolato, tra l'altro molto approfondito, molto interessante, insomma, che affronta tutta così le vicende di Libano e Palestina in maniera molto molto interessante. E appunto ci sarà questa proiezione, insomma si starà un po' così, momento di socialità, e quindi manifesteremo la solidarietà a George, non solo diciamo così idealmente, ma anche con un benefit. E allora, e perché proprio ora? Perché il 5 dicembre il compagno verrà processato, chiaramente lui in videoconferenza, a Trieste, una cosa paradossale, viene processato per accusato di un trasporto di esplosivo oltre la frontiera italo-slovena che sarebbe avvenuto nel 1984, anno del suo arresto. E non si sa nemmeno se c'è già stato una sentenza, diciamo, per questo reato, e Roma deve ancora esprimersi su questo fatto. Allora, diciamo, con questa così sciagura di questo ulteriore processo, abbiamo colto l'occasione per dimostrare solidarietà al compagno. Allora, vorrei dirvi qualcosa perché è interessante la sua vicenda. Intanto Georges nasce nel Libano settentrionale nel 51, da giovanissimo, insomma ventenne nemmeno, prima inizia la sua militanza nel Partito Nazionale Socialista Siriano, ma quasi subito aderisce al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e appunto inizia questo suo impegno così capillare nella realtà delle zone della miseria, nei campi profughi, nelle città e nei villaggi del sud del Libano. Allora, che cosa succede? Il 14 marzo del 1978 l'esercito sionista di Israele invade il sud del Libano per distruggervi le basi della resistenza palestinese. In quell'occasione, con questa operazione qua militare dell'esercito israeliano, vengono uccisi 1000 civili e vengono distrutti 88 villaggi, provocando l'esodo di 285.000 profughi. E George, in questa situazione, appunto, fa parte del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e combatte contro questa invasione, rimanendo ferito. E dopo, in seguito, andiamo avanti insomma con la storia, dopo mesi di bombardamenti aerei e navali, raid di elicotteri, attacchi condotti tramite l'ausilio di truppe mercenarie, eccetera, il 6 giugno 1982 l'esercito israeliano invade nuovamente il Libano, giungendo fino a Beirut. Questa l'avevano chiamata Operazione Pace in Galilea. 25.000 morti, 45.000 feriti, Beirut devastata. Questa ennesima aggressione si scontra con una forte resistenza. Restano sul campo infatti 670 soldati israeliani. E come diciamo anche in un certo senso come rappresaglia, il 16-17 settembre dell'82 c'è il massacro del campo profughi di Sabra e Shatila per opera delle falangi, che erano delle milizie cristiano-fasciste libanesi, però subillate, comunque avallate dall'esercito israeliano. Allora, in questo massacro terribile muoiono 3.500 civili disarmati palestinesi e libanesi, e poi centinaia di militanti arabi vengono catturati nei campi di Ansar e di Qiyam, molti di loro verranno fatti sparire. Allora, in questa situazione, insomma, di attacchi costanti e di pulizia etnica anche allora, vista la complicità delle potenze occidentali in queste due invasioni del 78 e dell'82, diverse organizzazioni di combattenti arabi e libanesi, tra cui anche le frazioni armate rivoluzionarie libanesi di cui Georges Ibrahim Abdallah fa parte, decidono di portare la guerra contro l'imperialismo e il sionismo nel mondo. E quindi decidono di attuare una lotta politico-militare nelle metropoli imperialiste. Allora, che cosa succede? A gennaio dell'82, il 18 gennaio dell'82, il colonnello Charles Ray, alto funzionario militare presso l'ambasciata USA in Francia, viene colpito a Parigi. E sempre nell'82, il 3 aprile, Yakov Barsimantov, che è un alto esponente del Mossad, cioè del servizio segreto, dei servizi segreti israeliani, presso l'ambasciata sionista in Francia, anche lui viene colpito. E nell'84 poi vengono arrestati in Italia i primi militanti delle FARL, frazione armate rivoluzionarie libanesi, e la repressione prosegue in Francia. Difatti il 24 ottobre dell'84 Georges Ibrahim Abdallah viene arrestato a Lione per possesso di documenti falsi, quando in realtà il passaporto era legalmente, insomma, detenuto legalmente, era un passaporto algerino. Comunque, su questa faccenda di George si scatenano le ire funeste. Addirittura c'è un incontro tra Reagan e Mitterrand che discutono del caso, e gli USA si costituiscono parte civile nel processo contro di lui, e il 10 luglio 1986 viene condannato a 4 anni. Reagan più Mitterrand si incontrano in Francia, in quanto, come ho detto prima, mi pare di averlo detto, viene arrestato a Lione. Magari qualcuno può non sapere chi erano questi due defunti. Giusto, Reagan presidente degli Stati Uniti, allora Mitterrand presidente della Francia, della Repubblica Francese. Allora, dicevo, gli Stati Uniti si costituiscono parte civile nel processo contro di lui, e il 10 luglio dell'86 viene condannato a 4 anni di carcere. Allora, tra il 1985 e l'86 in Francia vengono compiute varie azioni rivendicate dal Comitato di Solidarietà con i prigionieri politici arabi, che richiede la liberazione di Georges, poi Ibrahim Abdallah, poi di Anis Nakache, militante libanese accusato del tentato assassinio dell'ex primo ministro dello Shah d'Iran, e di Varoudian Garbidian, che è un militante dell'armata segreta armena per la liberazione dell'Armenia, accusato dell'attentato all'aeroporto di Orly nel 1983. Quindi c'è questo, insomma, mobilitazione, diciamo, solidale con questi tre prigionieri politici. Nell'87 la polizia politica francese rinviene miracolosamente per loro un'arma in un appartamento affittato a nome di Georges Ibrahim Abdallah, affermando che quella è l'arma usata per uccidere il militare USA e l'agente segreto israeliano di cui dicevo prima. Quindi, in seguito a questo ritrovamento, Georges viene condannato all'ergastolo. Però all'ergastolo da un tribunale antiterrorismo creato ad hoc, in cui i giudici sono autorizzati a pronunciare sentenze avvalendosi di dati forniti dai servizi segreti. Bisogna dire però che in Francia l'ergastolo non potrebbe superare i 15 anni di reclusione, cioè praticamente non, dopo 15 anni di reclusione, il codice penale francese stabilisce che si può essere liberati tramite decreto amministrativo del ministro della giustizia e senza, non è necessario presentare domanda di grazia, se non che invece, quindi dal 99 diciamo Georges sarebbe liberabile, però questo non avviene, insomma lui continua a lottare anche all'interno del carcere, continua a difendere la causa dei popoli oppressi, insomma ci sono diverse azioni che porta avanti con altri anche prigionieri politici, aderisce alla piattaforma del 19 giugno 1999 che riunisce in una lotta comune dentro le carceri un centinaio di rivoluzionari, comunisti, anarchici, antifascisti, antiimperialisti. E insomma, praticamente nel novembre 2003 finalmente la giurisdizione regionale per la scarcerazione condizionale di Pau, sempre in Francia, autorizza la sua liberazione, a condizione però che lasci la Francia. Però, su ordine del ministro di giustizia, il procuratore generale di Pau ricorre in appello e quindi nel 2004 viene stabilito che George deve rimanere in carcere. Quindi l'accanimento, questa vera e propria persecuzione continua, tutte le domande di scarcerazione vengono respinte e vengono fatte nel 2005, nel 2006, nel 2007, vengono tutte respinte. Nel 2013 la Camera per l'applicazione delle pene decide la scarcerazione e l'espulsione, ma il ministro dell'Interno rifiuta di firmare l'espulsione, rendendo impossibile la liberazione del compagno. Nel 2014 la nona domanda di scarcerazione viene giudicata irricevibile, quindi alla fine lo Stato francese decide di praticamente murare vivo questo compagno, di prenderlo come caso esemplare, diciamo, e di appunto di murarlo vivo. E beh, appunto è una, c'è questo, ci sono insomma delle pubblicazioni con i suoi scritti, le sue dichiarazioni, i suoi comunicati, insomma, di sostegno alle lotte dei popoli oppressi. E che dire, si può dire ancora qualcosa rispetto alla tutta la, così, il movimento di solidarietà che è vicino a Georges Ibrahim Abdallah e non solo a lui naturalmente, ma che lo prende come esempio, diciamo, di prigioniero rivoluzionario che non si piega assolutamente. Una cosa che io ho trovato interessante è che nel 2022 a Gaza City Rue Charles de Gaulle è stata rinominata Rue Georges Ibrahim Abdallah. E poi nel 2017 c'è stato un grande sciopero di prigionieri palestinesi rinchiusi nelle carceri israeliane e anche in quelle purtroppo dell'autorità nazionale palestinese. E 1500 di questi prigionieri entrano in sciopero della fame e c'è una grande movimento di solidarietà internazionale tra i prigionieri e in Grecia aderiscono a questo sciopero, sostengono questo sciopero i prigionieri anarchici, e anche nell'Irlanda del Nord i prigionieri politici così sostengono questo sciopero, in Francia nel carcere di La Némésan, che è il carcere dove tuttora è detenuto Georges, lui insieme con detenuti baschi, marocchini, algerini e tunisini portano avanti anche loro questo sciopero della fame. E poi insomma ci sono varie altre vicende, insomma, che lo vedono così partecipe, insomma, anche da dentro, attivo anche da dentro rispetto a quella che è stata la lotta di una vita. E allora ricordo l'appuntamento domani, che è il giorno 24 novembre, a Trieste, in via dell'Istria, in uno spazio che si chiama Bibitando e Magnando, dalle ore 18 ci sarà la proiezione di Fedain. E invece a Udine venerdì 1 dicembre dalle ore 20:30 al centro, allo spazio autogestito di Via De Rubeis. Stiamo ascoltando il lato A del disco Germ Free Adolescence degli X-Ray Specs. Questo disco è uscito nel 1978. Prima di salutarci, così siamo quasi alla fine della trasmissione, volevo finire con una cosa, con una bella notizia, e cioè con la notizia della scarcerazione di Domenico Porcelli, detenuto al 41 bis, che era in sciopero della fame dal 28 di febbraio scorso. Ne abbiamo parlato diverse volte, insomma, era la sua condizione di salute era anche drammaticamente peggiorata. Allora, un paio di giorni fa c'è stata questa sentenza d'appello e è caduta l'accusa di associazione a delinquere e la pena è stata ricalcolata da 26 anni a 12 anni ed è stato emesso questo ordine di scarcerazione. Quindi da parte nostra sì, vogliamo esprimere, insomma, tutta la nostra vicinanza e solidarietà a questo prigioniero. Yeah. Bene, sempre sulle note di questa band inglese che aveva esordito nel 1976 per poi sciogliersi nel 79, che come abbiamo già detto sono questi X-Ray Specs. Quindi, anche come è già stato annunciato, siamo agli sgoccioli della trasmissione che è Zardes Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. E se volete contattarci potete farlo alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure scriverci direttamente in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione, ma anche tutte quelle dei giovedì passati, potete andare sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, salutiamo anche chi ci ascolta domani sul web radio Radiazione dalle ore 19. Rimaniamo con questo ultimo brano, cioè scusate, dalle ore 17, non dalle ore 19. Rimaniamo sempre con questo ultimo brano degli X-Ray Specs. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.